Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, beh, lo è di sicuro per Antonio Cassano e per tutti coloro che hanno trepidato in questi giorni per la sua sorte. Come avrete appreso dal giornale radio, la diagnosi è favorevole, nel senso che vi leggo rapidamente gli esami strumentali neuroradiologici, lo leggo soprattutto per chi non ha ancora ascoltato il giornale radio, all'ultimo giornale radio di pochi minuti fa. La notizia è c'è stata una sofferenza di area cerebrale circoscritta, ma che la cui causa è stata identificata in buona sostanza in un piccolo problema cardiaco interatriale. C'è già stato un rapido recupero e miglioramento delle condizioni cliniche, c'è l'annuncio di un piccolo intervento di cardiologia interventistica che verrà effettuato nei prossimi giorni e c'è la definizione di massima dei tempi di recupero, la prognosi dunque, che per il ritorno all'attività agonistica sarà meglio definita, recita il comunicato, dopo l'intervento, ma verosimilmente sarà di qualche mese, che non è poco se ci riportiamo a sabato scorso, anzi che è moltissimo per Cassano e per il Milan, ma che se ci riportiamo invece a domenica e magari anche a lunedì, contempla è come un grosso sospiro di sollievo. Il racconto di questi giorni, il commento e il sollievo, direi, ufficiale da parte di Adriano Gagliani. Un buchetto, voglio dire, nel cuore che ha provocato questa lieve sofferenza. Adesso lui verrà sottoposto a un interventino che chiude questa cosa qui e poi fra qualche mese la commissione della Federcalcio dovrà ridare l'idoneità al giocatore. Come voglio tornare a giocare? Altro che voglia, stavo pensando quando ritorno, assolutamente sì. Quindi poi diventa un fatto di prassi, di standard internazionale, per cui ci sono tempi, un certo numero di mesi per riavere l'idoneità, sono degli standard, voglio dire, della medicina sportiva. Da non medico ho detto: Antonio, ti è capitata una disgrazia, ma la disgrazia ti è andata di lusso, perché poteva capitare di peggio. Invece, ripeto, sarebbe stato molto meglio se non fosse successo niente, ma visto che è successo, diciamo che è andata bene così. Presumibilmente, adesso non voglio anticipare niente, 4, 5, 6 mesi. Dicevo che siamo in tanti a provare sollievo. Un grande sollievo certamente lo ha provato quello che rimane il padre putativo di Cassano. E sto parlando di Eugenio Fascetti. Buongiorno Eugenio. Ciao. L'hai sentita la notizia in dettaglio? No, ho saputo che gli fanno un piccolo intervento cardiaco che ci sarà nei prossimi giorni, che risolverà certamente la situazione. Le condizioni di Cassano sono nettamente migliorate. Dopo questo intervento ovviamente ci sarà tutta una lunga procedura, ma si parla di un ritorno in campo nel giro di qualche mese. Dicevo prima, mentre ci collegavamo, che se ci riportiamo a sabato sera e al Cassano asciutto, tirato a lucido, che abbiamo visto all'Olimpico, è un delitto. Se pensiamo alla paura di domenica, mi sembra che non ci si possa. Una notizia, penso, io dico buona, perché si può porre rimedio e Antonio potrà continuare a giocare. Ecco, magari questo piccolo difetto l'ha anche limitato fino adesso, chi lo sa. In che senso? No, limitato nel senso, magari anche queste piccole, cioè questi rendimenti un po' altalenanti, chi lo sa, che non fosse anche dipeso da queste cose qui. Magari anche questo, no, in effetti ci magari può. Magari anche questi, ogni tanto qualche cassanate fosse dipeso da questo, magari, certo, arrivava poco salve. Poco ossigeno, dice. Allora, ridiamo un po', perché dopo la... Certo che ridiamo, Dopo la paura si può anche scherzare. Ma non c'è dubbio, ma poi Eugenio, io sono contento, sono convinto, volevo dire, sono convinto che da te lo accetta e accetterebbe questo e altro. Guarda, credo che Cassano, io non sono evidentemente un amante, nemmeno un cultore di Cassano letterato, no? Perché insomma il libro di Cassano, no, ma anche perché poi l'ha scritto Pierluigi Pardo, il libro non l'ha scritto certamente Cassano, che era soltanto... Sì, ma penso anche altri che hanno scritto libri un pezzo che l'abbiano scritto loro. No, non è l'unico, solo Cassano. Non è l'unico, dici tu, che ha avuto bisogno del credo proprio di sì. Del ghostwriter, già. Senti, però c'è in questo libro una delle più belle frasi che un calciatore abbia mai dedicato ad un allenatore. Tu certamente la saprai, ma io la leggo per gli ascoltatori. Scrive Cassano, dice Cassano, mettiamola così: è l'unico allenatore Fascetti con cui io non ho mai litigato. Se sono ricco lo devo a lui, se ho una bella casa lo devo a lui, se mia mamma può essere fiera di me lo devo a lui. Un giorno mi chiamò a fare l'allenamento con la prima squadra. In partitella presi il pallone, scartai tutti, mi fermai sulla linea di porta e dissi: non posso giocare con ste pippe. Lui si innamorò di me, altri mi avrebbero cacciato. Insomma, c'è parecchio di vero. Parecchio, diciamo che è un po' romanzata, ma la sostanza è quella. La sostanza è quella. Beh, insomma, mi pare un rapporto che è durato nel tempo, no? Perché io. Ma io ripeto, l'ultima volta che ho visto Antonio è al matrimonio, poi non l'ho più sentito. Io penso che è fatto così. Però ripeto, quello che c'è fra di noi certamente non basta, non è una telefonata che non può aumentare da 2000 lire. Ma certo, è un rapporto che dura nel tempo. Eugenio Fascetti oggi è con noi, non soltanto in quanto scopritore storico di Cassano, di questo diamante grezzo che era difficile da sgrezzare in ogni caso, è con noi anche perché... ha ottenuto in carriera 5 promozioni dalla Serie B alla A, e sto parlando di Lecce, in ordine cronologico: Lecce, Lazio, Torino, Verona, Bari. Quindi insomma, mi sembri la persona più indicata per fotografare una Serie B assolutamente anomala, perché se noi guardiamo la classifica di A di quest'anno, così corta, così compatta, sembra una classifica di B. Se noi guardiamo la classifica di B con queste squadre che stanno viaggiando a ritmi impressionanti, sembra una classifica di A. Insomma, il campionato di B quest'anno mi sembra di un livello veramente nettamente superiore. Oltretutto vedo anche gli stadi piuttosto pieni, perché vedo Pescara pieno, Sampdoria nonostante tutto pieno, Verona sì. Pieno. Insomma, fa piacere rivedere un entusiasmo per questo campionato che era stato un po' dimenticato. Ma è successo un miracolo oppure la società... Io vedo anche, le hanno dato anche un po' più di importanza sia alle televisioni sia ai giornali, e poi insomma c'è certe società che... hanno sempre avuto un grosso pubblico, no? Perché Verona si parla di 15.000 persone a domenica, certo, non è neanche che sia poi fra i primi in classifica. Pescara sta ritornando l'entusiasmo dei tempi di Galeone, quindi e Torino se ne parli, Sampdoria nonostante il brutto inizio la gente, anche ieri ce n'era 20.000, insomma, pochi. Non sono pochi, no. Senti. E poi vedi questo non mettere di Stabia, non c'era, insomma, il pubblico sta ritornando, ecco. Oltretutto anche vedo delle belle partite. Quindi il pubblico è sensibile alla qualità, evidentemente. No? Quindi questo è un dato positivo. Il Torino in particolare, che sta facendo una grande corsa di testa in attesa alla vigilia, certamente dopo tanti anni difficili, il Torino sembra quello di Fascetti 89-90, perché a questo punto della stagione il tuo ha 4 vittorie, 6 pareggi e nessuna sconfitta. Aveva appena giocato il 29 ottobre a Reggio Calabria, no? 0-0. E quindi vedi che ci sono delle analogie impressionanti. Questo va persino più forte del tuo. Ma questo mi fa piacere. Anche se così penso che le qualità di certi giocatori che c'erano allora non ci sono adesso. Talenti naturali come potrebbe essere. Faccio un nome, Lentini. Certo. No, allora c'erano giocatori di maggiore qualità. Cravero. Poi c'erano i fuori classe, presunti fuori classe, vedi il brasiliano. Miller. Chissà che fine ha fatto Miller. Io l'ho detto, torni sulle liane e ci sta. E probabilmente c'è tornato davvero. Torniamo in compagnia di Eugenio Fascetti. Oggi tramite Cassano, la Serie B, di cui Fascetti è stato un grande cultore, e non solo ovviamente, perché poi ha giocato e allenato in A, ma insomma sta rubando la scena proprio per una superiore qualità, per un aumento di spettatori, eccetera. Anche perché mi pare che Eugenio ci sia non dico il trionfo, ma il ritorno della terza età. Insomma, sia Ventura che Zeman ragazzini non sono. No, mi sembra anche, anche il signor Simoni, no? Anche il signor Simoni, sì, è vero. E poi lui è il record delle vittorie del campionato di Serie B, lui ha 27, credo. Lui ne ha 22 più di te, sì. 7, quindi, ripeto, il calcio è... Sai come i ritorni... È come Giambattista Vico, i ritorni... I corsi e ricorsi. I corsi e ricorsi. Fa piacere, insomma, Ventura è uno che... Dove è andato ha sempre fatto... Oltretutto vedere un bel calcio. Sai che... Poi Zema siamo sempre lì al suo discorso. È un allenatore che in fase offensiva è fantastico. Certo. Soltanto nello sport credo che... Sono le due fasi e quindi quando non pensare a difendersi in certi momenti va incontro poi a delusioni. È come se nella pallavolo uno è bravissimo in attacco e poi non facesse muro, sei destinato a morire. Certo. È come nella pallavolo, io leggevo in attacco, sai che sono abbastanza, mi diverto a leggere un po' di più sport, ma leggevo la pallacanestro da Dan Peterson, diceva che le vittorie vengono da una difesa scorretta, fra l'altro. No. nemmeno tanto pulita. No, sporca, ragazzi, ecco la parola giusta, la difesa sporca. La difesa sporca, cioè rubi palla e parti, perché certo. Allora trovi spazi, perché ora posso dire, ora dicono i nove modi, ma ora le squadre si difendono in nove, anche in dieci. Come no? E poi per vincere che devi fare? Devi conquistare la palla, devi andare più velocemente possibile dall'altra parte, sperando che la squadra avversaria non ti sia richiusa. Questo è il calcio. Sai che la difesa sporca mi fa venire in mente il casino organizzato, che era la tua grande formula, no? Ma era un po'. Non, anche noi a Varese, io parlo di Varese. E come no? Difendevamo. In punta avevamo Auteri poi, ecco, e basta. Poi gli altri erano tutti pronti a difendere e pronti a ripartire. Ma allora eravamo una novità e. Spesso e volentieri troviamo le squadre scoperte, ora è dura. Ora è più dura. Senti, Roby Dallari, un ascoltatore, io ricevo sms in tempo reale da Milano, mi informa che da un articolo letto qualche mese fa Müller se la passa molto male, senza soldi, senza famiglia, completamente allo sbando. E quindi... Ma pensa che io quell'anno lì a Torino, tornando al Torino, all'inizio ci fu la lite, tutto sport non voleva che facesse giocare, cioè preferivano... Cioè il Marchigiani sarebbe stato il nostro punto debole, ecco come è diventato Marchigiani. Con Müller doveva giocare per forza Müller. Io dico probabilmente i fuoriclasse probabilmente certe persone non l'avevano mai visti, eppure a Torino c'è stato dei fuoriclasse quegli anni lì. Ci sono stati prima, anche... dai tempi degli Hansen, di Prest, Arrivo, Richard. A dire che Müller era fuori classe e da lì sono nati anche i guai di Fascetti, e da lì è nato anche il declino del giornalismo sportivo. Vabbè, ma questo è un altro Comunque da lì sono Fascetti non fa, prendendo certe posizioni poi si è giocato alla panchina. Pensa un po'. Senti, abbiamo detto la terza età, abbiamo detto di Ventura. Con Ventura avete in comune non solo il Torino, ma avete in comune il Bari, perché tutte e due, voglio dire, avete lasciato... Anche Lecce, se non sbaglio. Anche Lecce. Ma a Bari avete lasciato grandi tracce, anche sentimentali, direi. No, io fidanzato a Forza a Bari non c'era. Sto parlando di tifoseria, né. No, ma io ho tanti fans baresi, non penso di averne. No, non ne sono rimasti. No, credo. Ti hanno voluto bene finché c'eri, o comunque ma no, proprio quando c'ero che non mi hanno voluto. Cioè, delle belle guerre c'erano. C'erano delle belle guerre, allora, anche perché diciamo che. A Bari sono rimasto affezionato al presidente, Vincenzo Mattarese. Poi. Non. Sai cos'è? Non è che così. Cioè, ho avuto delle guerre non giuste, secondo me. Diciamo anche che nella tua carriera non hai la ricerca degli amici non è mai stata il tuo forte. Anzi, forse mi caricavo. Certo, e quindi... Senti, io chiuderei questa conversazione, di cui ti ringrazio molto davvero. La chiuderei tornando un attimo su Cassano, perché quando qualche tempo fa Cassano, chissà se... presentendo qualcosa o semplicemente imitando una cosa che aveva detto Ibrahimovic, cominciò a parlare, ma parlo di 2 o 3 settimane fa, no? Di ecco, gioco ancora 3 anni, poi smetto, eccetera. Chissà se si sentiva qualcosa. E mi ricordo che tu sei intervenuto, non dico duramente, ma affettuosamente, dicendogli: guarda, guardali, non dirlo nemmeno per scherzo, perché il dopo, perché dopo è dura, dopo dura, è vero? E penso che sarà durissima anche in questi mesi, perché adesso non appena starà meglio bisogna legarlo questo per non farlo giocare a pallone. Va bene, ma insomma io penso che abbia persone intorno all'altezza di saperlo, cioè di dirgli cosa deve fare. Certo. Quindi la penso ormai a questa età qui, penso che credo che sia il momento anche di diventare serio, sempre è stato serio, però insomma a un certo momento di capire che ha avuto un avvertimento, ecco, diciamo. Non c'è dubbio, ma mi pare che gli ultimi sviluppi della carriera di Cassano, ma anche dei suoi comportamenti, pur con qualche turbolenza ancora ogni tanto, dicessero. Ma a un certo momento ripeto, un po' proprio a un giocatore, a una persona, fanno diventare di colpo quello che non si sente. È un istintivo, Antonio, quindi l'istinto lo puoi togliere, ma poi a un certo momento qualche volta torna fuori. Ma ripeto, fa una cassonata, lui come viene ampliata, è questo che ha detto anche. Questo è anche abbastanza. Ha detto: faccio una cosa io, mi saltano addosso tutti. Poi fanno altre cose, ecco, fanno cosa altri, passa sotto. Più sotto traccia, silenzio. Ecco. E lui fa notizia, certo. Certo. Grazie, Eugenio. Grazie a te. Chiudiamo questo collegamento via Reggino con il grande Eugenio Fascetti, grande per tante ragioni, ma a cominciare da questa sincerità, da questa schiettezza, da questa mancanza assoluta, no, di cautela e a maggior ragione di ipocrisie. Massimiliano ha chiamato dalla provincia di Verona, buongiorno. Massimiliano aveva chiamato dalla provincia di Verona, buongiorno. Abbiamo molte cose da ascoltare. Beh, per esempio, ha debuttato un ragazzo ieri sera che è figlio d'arte, perché è figlio di Ganz, e ha giocato qualche minuto in questa partita del Milan. Sentiamo la testimonianza della sua emozione. Emozionante, sono molto contento, meno per il risultato, però questo giorno è stato molto importante per me. Siamo riusciti anche un secondo. Secondo me abbiamo sempre avuto la partita in mano. Non siamo riusciti a fare il secondo gol, e quindi loro su un episodio di rigore hanno pareggiato, poi non siamo riusciti a vincere questa partita. Sono contentissimo, però comunque io penso che non bisogna mollare mai, comunque andare avanti, perché ci si può sempre migliorare. Stadi pieni, scrive Paolo da Perugia, ognuno vive il proprio mondo, il pubblico in aumento va bene, ma stadi pieni in B non si direbbe. No, in effetti stadi pieni no, Fascetti si è fatto un po' trascinare dall'entusiasmo, ma insomma voleva dire, non cifra la mano, ma voleva dire in ogni caso un dato certo, che il pubblico della Serie B quest'anno è in netto aumento. Ora, arrivava da basi tali da... Insomma, da far pensare ancora lontano, da far pensare che occorra ancora del tempo, e parecchio, perché gli stadi di Serie B tornino a riempirsi, però insomma che siano aumento quel pubblico, certamente è vero. Anche Verona, in comune Ventura e Fascetti, fa notare un ascoltatore, è verissimo. Ma insomma mi sembrava giusto, ripeto, tramite Cassano e tramite soprattutto Eugenio Fascetti, che per una volta il torneo di Serie B avesse la precedenza addirittura sulla Champions League, visto che è stata quella di ieri una serata abbastanza normale, non dico sbiadita, ma non più che normale. E visto che c'è questa, ripeto, anomalia assoluta nei nostri due campionati, e cioè il fatto che la classifica della Serie A sembri una classifica di Serie B, bella, corta, compatta, senza squadre guida, eccetera, e che invece la classifica di B sembri una A vecchia maniera, di quelle in cui ci sono squadre che prendono il largo giocando un bel calcio e ottenendo tanti tanti punti in classifica, perché non parlo solo del Torino, sto parlando per esempio anche di Pescara e Sassuolo, che sono a medie molto alte di punteggio e di rendimento, come lo stesso Padova, per esempio. Bisogna arrivare sotto il Padova per trovare un campionato di Serie B normale quest'anno. E pensate che sopra ce n'è quattro, e quindi qualcosa vorrà pur dire. Un ascoltatore bolognese, Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Buongiorno. Io sono milanista da 50 anni praticamente, e in questo momento sento che il Milan fa sentire molto la famiglia attorno a Cassano, cosa che ha sempre fatto con tutti. Mi dà questa sensazione anche a sentire Galliani parlare in quella maniera, quel modo di, diciamo, di preoccuparsi, di essere presenti, molto presenti. In un caso come questo direi è giusto, no? E direi che è anche inevitabile in un caso come questo, perché insomma, quello che è capitato a Cassano, che per fortuna è meno, parecchio meno sul piano umano, poi sul piano sportivo non è così poco, ma insomma è molto meno di quello che si temeva all'inizio, credo che non possa che coagulare intorno a un giocatore l'affetto di tutta la squadra, la società, l'ambiente, la tifoseria. Insomma, guai se non fosse così, se non ci fosse più nemmeno questo nel calcio. Già sono sparite tante altre cose, che resti almeno questo. Quanti messaggi ci sono oggi sul display? Due consecutivi, uno dopo l'altro, funzionano da domande in un certo senso e da risposta. Allora, Piero da Vicenza scrive: caro Garanzini, mi scuso, ma non è che lei nel passato parlasse molto bene di Cassano. Com'è cambiata la valutazione del suddetto? Risponde Andrea, il messaggio successivo che arriva da Pinerolo, firmato Andrea, e dice: la vita gli ha regalato un gran dono che per anni lui ha trascurato. Ora che si era deciso a sfruttarlo in pieno, la vita ha deciso di sospenderglielo momentaneamente. Ecco, questo mi pare che sia una buona risposta che faccio mia. Sentirei qualche vigilia, per esempio un breve frammento che De Santis ha dedicato alla vigilia di Bayern-Napoli, che include le partite di Coppa di stasera, che De Santis ha dedicato proprio a Cassano. È uno stimolo, e lo faccio un po' in maniera scherzosa, come piace a lui, visto e considerato che abbiamo giocato spesso contro e non mi ha ancora fatto gol. Mi piacerebbe che guarisse presto, tornasse sul campo per, non dico per farmelo, perlomeno per provarci. La vigilia di Ranieri, l'Inter stasera è attesa da una partita, ne abbiamo parlato ieri in dettaglio con Fabio Tavelli, che tra poco riascolteremo in una versione leggermente diversa, anzi molto diversa dal consueto. La vigilia di Ranieri, di Inter-Lille. Quando c'è un cambio di allenatore è perché determinate cose non vanno, non è che arriva il mago di Oz e con la bacchetta cambia tutto, per cui mi aspettavo delle difficoltà e sono venuto preparato per superarle con l'aiuto della squadra. Noi siamo abituati ad alti e bassi, fa parte del calcio, no? Quando tutto ti gira bene, quando tutto ti gira male. E per cui pulire la testa, io intendevo ai ragazzi, proprio levare tutte le scorie negative, no? Perché soltanto così si è positivi. E questo era Ranieri. C'è un altro tecnico che vi farei ascoltare, che è Didier Deschamps, alla guida del Marsiglia. Ieri sera ha pareggiato sul campo dell'Arsenal, e poi mi pare che in questa conversazione si sia spinto anche su altri versanti che evidentemente gli sono rimasti familiari e congeniali. Didier Deschamps: è importante prendere un punto, perché credo che abbiamo fatto una buona gara, anche se abbiamo avuto qualche opportunità di poter vincere, però dopo aver perso la partita di andata ai supplementari in casa nostra, prendere un punto qui, sicuramente la prossima partita in casa con l'Olympiakos può essere decisiva per noi per la qualificazione. Beh sì, mi sorprende, è una buona sorpresa, sono contento per lui, per i giocatori, per tutti i tifosi bianconeri, e credo che l'ultima vittoria contro l'Inter è stato un ottimo risultato. Ancora la strada è molto lunga, però credo che ormai si deve contare con la Juve per lo scudetto quest'anno. Cristian ha chiamato da Pisa, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, senta, una domanda. Secondo lei Moratti, con la vittoria della Champions League, pensava di avere dei marziani o cos'altro? Si vendono giocatori come Milito, che voleva andare via, voleva l'aumento di stipendi, come Maicon, per non ritrovarsi con una squadra ultra trentennale e senza idea, a differenza di una squadra come il Milan, che piano piano sta ritirando su in maniera giusta. Noi niente, aspettiamo di avere tutti i giocatori come Zanetti per cambiarne qualcuno, l'idea di un tecnico senza rimpasti, Ranieri, Benitez, Gasperini, o forse era meglio partire con tutti i ragazzi giovani se Moratti non ha più voglia di investire in questa squadra? Avrei voluto vedervi voi tifosi interisti se l'Inter, dopo aver vinto la Coppa dei Campioni, avesse sbaraccato tutti quelli che dite adesso e fosse ripartita dai giovani. Avrei proprio voluto vedere voi. E non creda che il Milan sia un esempio molto diverso, perché lei non deve rapportarsi al Milan di adesso. Si rapporti al Milan nel 2007 e provi a domandarsi se quella vittoria nel 2007 di Coppa dei Campioni a sua volta non fu per il Milan un problema condizionante per le stagioni successive. Questo è un errore oggettivamente, ma è un errore che commettono tutti, e se tutti lo commettono si vede che è veramente un po' difficile da non fare, no? Perché è un misto di sensazione di invincibilità di quel momento, ma anche di gratitudine, insomma. È un errore di prospettiva, ma ripeto, mi pare che ben pochi ne vadano esenti. Dopodiché l'Inter può aver sbagliato, anzi ha sbagliato in maniera particolare, ma non mi dica che è stata l'unica, e soprattutto non mi dica che ci sarebbero tifoserie contente di vedere smantellare una squadra che ha appena vinto tutto quello che c'era in quella stagione e che dall'anno dopo punta sui giovani. Dai, cerchiamo di non prenderci in giro, se è possibile. Sentiamo invece un tecnico che torna su una panchina. Certo sarà dura per Arrigoni salvare il Cesena, viste le condizioni, però è anche giusto provarci, magari cominciando a recuperare qualche infortunato. Arrigoni. L'aspetto più importante secondo me è che io ci credo, nel senso che conosco discretamente la Serie A e so che è ancora tutto possibile. Secondo me ci sono delle squadre alla nostra portata, il gruppo è fatto di un giocatori validi e io sono estremamente convinto che ancora ci siano immagini per fare, per quello che pensiamo di poter fare, di raggiungere la salvezza. Di questo non sono proprio convinto, e tutti penseranno magari che ho accettato, perché io nella mia testa non c'è mai stata ad allenare il Cesena, onestamente, perché so che per me probabilmente verranno solo problematiche sotto un certo punto di vista, però è una bella sfida e siccome io ho coraggio spero proprio di portarla a termine, ed è quello che ci vorrà secondo me a tutto il gruppo, alla società, a tutti quanti. La parola coraggio e convinzione deve essere quella che ci deve accompagnare. Vediamo dove si trova oggi, anziché nel consueto studio di Sky Sport 24, dove si trova Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, abbiamo superato Innsbruck, stiamo andando abbastanza a vele spiegate, anche se con il rigoroso rispetto dei limiti autostradali verso la Germania. Ma il plurale è maiestatis oppure... Ovviamente non mi permetterei mai. No, abbiamo deciso io e un amico questa mattina, dopo aver portato i bambini a scuola, di fare il pieno sulla Vigentina, di prendere l'autostrada e di andare a Monaco di Baviera a seguire Bayern di Monaco-Napoli, cosa che stiamo facendo. Ma avendo almeno un accredito oppure pensando di andare in Baviera? Non ci sono tanti bagarini in Germania, eh? No, anche lì zero accrediti. Andiamo a pagamento, abbiamo chiesto dei biglietti e grazie a un pizzico di entrature, ma neanche poi tanto. Vorrei vedere. Beh, insomma, se neanche questa la sfruttiamo, allora cosa siamo al mondo a fare? E quindi il nostro biglietto ci aspetta all'Allianz Arena. Senti, dato che tu non mi risulti particolarmente tifoso del Napoli, cioè niente di ostile per carità, ma nemmeno no. questo grande trasporto, è un tifoso del Napoli l'amico oppure... No, l'amico Maurizio è un pavese doc e tanto credo di non sapere neanche perché squadra tifa. Il senso del viaggio è esattamente questo, cioè di prendere la macchina, di andare a fare un giro, di andare a Marienplatz a bere una birra mangiando un Würster, di andare allo stadio a vedere la partita, di tornare in centro a Monaco e magari fare una cena un po' più tranquilla e domani mattina con tutta calma, dopo aver comprato qualche souvenir, in questo caso credo del Bayern di Monaco, sì. Lui ha un figlio maschio, riprendiamo la via di casa e torniamo a casa. Beh, divertente, quindi un low cost però automobilistico, Pavia Monaco di Baviera Pavia, insomma. Esattamente, giusto? Esattamente. Questa è la roadmap e questi gli intendimenti. Perfetto. Possiamo contare domani su una breve resoconto, ma direi sì, tecnico se vuoi, ma di colore, perché poi in fondo vedere una partita tra il pubblico rispetto a, lasciamo stare la TV, ma insomma rispetto a una tribuna stampa, rispetto ai monitor, rispetto a queste cose, un po' di differenza c'è. Come minimo ti mancheranno i replay, non te lo dico prima, insomma. No, direi proprio di no, anzi io ho proprio bisogno, sento fisicamente il bisogno di tornare a vedere una partita dal vivo, mi manca dal mondiale in Sudafrica 2010, quindi il periodo, l'astinenza era diventata insopportabile. L'Allianz Arena mi ricorda il mondiale del 2006, mi ricorda la semifinale che ho visto tra Francia e Portogallo, mi ricorda un bel periodo professionalmente parlando, quindi ci torno molto volentieri. Ovviamente a piena disposizione sia per una analisi, per quello che posso, tecnica e anche ambientale. Cioè, abbiamo già incontrato parecchi tifosi del Napoli negli autogrill nella strada prima del Brennero e quindi credo che adesso d'ora in poi ne incontreremo anche di più. Si stava comportando bene, spero. Assolutamente bene. Meno male, vediamo di non farci riconoscere oltre confine. No, a me, l'unico a riconoscere ero io, perché mi ha riconosciuto loro. E quindi, no, tutto molto bene, a quell'autogrill tutto molto bene. Ci risentiamo tra 24 ore. Molto volentieri, Gigi, un abbraccio a tutti. Grazie Fabio, buona partita. Ciao. A te e al tuo amico. Alessandro in linea da Lucca, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Ricollegandomi a quello che ha detto lei sul fatto di non prenderci in giro se l'Inter avesse mandato via i grossi campioni, io mi permetto di essere controcorrente con lei, penso dire che quando in una squadra comunque sia si chiude un ciclo si deve riaprire. Io ricordo che nell'Inter, e su questo mi piacerebbe sapere perché Ranieri, persona di 60 anni, tranquilla, pancata e brava, è andata in una società così veramente incasinata, in una società dove non hanno resistito gente come Simone, Cooper, Tardelli, Hodgson, Corso, Lucesco, Lippi, Mancini, Leonardo, Mourinho, Zafferini, Benitez. Cioè, io l'unica cosa che preferirei sarebbe esonerare Moratti. Purtroppo è una cosa che non si può fare e saremo sempre, comunque sia propensi a fare dei campionati e delle situazioni molto molto ridicole. Lei parla di politica dei giovani, mi dica quali giovani ha lanciato l'Inter. Io non ho minimamente parlato di politica dei giovani, ho detto che se dopo Madrid, stiamo parlando un anno e mezzo fa, non di preistoria, tutti questi fenomeni di tifosi che adesso dicono bisognava cambiare, bisognava rinnovare, bisognava mettere i giovani, mandare a casa tutti, l'Inter avesse fatto questo, sareste stati voi i primi a dire esattamente il contrario di quello che state sostenendo adesso. Ma questo non soltanto all'Inter, questa è una delle degenerazioni tifoidee più classiche proprio, no? Io vorrei un giorno parlarne con magari con qualche psichiatra di vaglia e credo che confermerebbe assolutamente questa e altre tesi che insomma da questi microfoni abbiamo provato ad accennare, in qualche caso a sviluppare in questi anni. 2 novembre, non proprio una data festosa, questo si sa, a meno di non prenderla alla milanese, famosissima poesia, canzone, insomma, ma detto modo di dire assolutamente milanese, che è l'Eldì di Mort, è il giorno dei morti, allegri, è un modo di, no, di tirarsi su da questa triste ricorrenza. Vediamo per il 2 novembre che cosa ha trovato Nicola Filippone. Sembra ieri. 2 novembre 1929. Lo scozzese Matt Busby, futuro allenatore del Manchester United, debutta come calciatore nella prima divisione inglese. Indossa la casacca celeste dell'altra squadra di Manchester, il City, che ospita il Middlesbrough, battendolo 3-1. Busby rimarrà a Main Road fino al 1936, quando si trasferirà a Liverpool. Diventerà manager dello United nel 1945 e manterrà l'incarico per ben 24 anni, nel corso dei quali formerà generazioni di calciatori, tra cui campioni del calibro di Bobby Charlton e George Best. Durante la sua gestione, i Red Devils vinceranno 5 titoli inglesi e diversi trofei, su tutti la Coppa dei Campioni del 1968. La straordinaria avventura di Busby al timone dello United sarà profondamente segnata dal disastro aereo di Monaco del 1958, nel quale perderanno la vita 8 dei suoi ragazzi. Il 2 novembre è anche il compleanno di Ricky Albertosi, uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano, che oggi ne compie 72. Sentiamo Massimo, chiamato da Foggia, buongiorno. Buonasera dottor Garanzini e complimenti. Io faccio il medico, volevo solo farle una piccola considerazione che chiederle un consiglio. Stamattina parlando con un mio amico, nel rileggere la storia di Cassano mi sono posto un po' di problemi. Da un lato la sua sintomatologia mi è sembrata subito che non potesse essere ascritta a un problema di labirinto, ma avevo pensato sulle prime a un fatto cerebrale, come poi è stato purtroppo confermato. E devo dirle che in prima analisi avevo pensato che potesse avere una policlobulia perché lui è uno sportivo, ma poi successivamente nel sentire la sintomatologia ho pensato che il forame ovale è una delle situazioni più congenite che esistano. E mi chiedo come mai tutto un sistema così pronto come quello del Milan o quello del Real Madrid o della Roma non abbiano mai provato a fare un ecocardiogramma o una valutazione dei vasi del collo. Cioè, voglio dire, forame ovale è una situazione congenita, comunque c'è un iperafflusso, quindi mi sono posto questo problema. Probabilmente ci sarà stata anche una mancanza dal punto di vista della tutela del calciatore. Questa è la mia considerazione. Di cui la ringrazio Massimo, ma che non sono evidentemente per difetto di competenza specifica, non sono assolutamente in grado di commentare. Radames ha chiamato da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Intanto complimenti. Chiamavo per dire la mia sull'Inter. Non sono un tifosissimo da divano tutte le domeniche, però da quando ero bambino ci tengo. E devo dire che secondo me, piuttosto che una crozzaglia di campioni e campioncini per tappare qualche buco qua e là, forse era meglio effettivamente fare una squadra che ripartisse da giovani e che avesse anche qualche nota di italianità in più. Volevo dire poi qualcosa riguardo a Cassano, che credo che io da padovano e da interista, comunque a me è una persona molto simpatica e credo che rappresenti un po' l'umanità, insomma è la persona che sbaglia, la persona che fa errori, ma che è un po' un Pinocchio insomma all'italiana. Grazie Radames. Nel frattempo a Palermo è saltata un'altra testa, non so perché, stavolta curiosamente non è l'allenatore, anche perché negli ultimi tempi Zamparini mi sembra che sta attento ad alternare il licenziamento di un allenatore con quello di un manager. Stavolta è toccato a Sogliano, figlio d'arte tra l'altro, che era a Palermo da pochi mesi e il cui rapporto è cessato stanotte, poi formalmente è stato Sogliano a dimettersi, ma insomma dopo, come dire, qualche divergenza di opinione con il suo presidente. Giovanni ha chiamato da Firenze, buongiorno. Buongiorno a lei dottor Garanzini. Dica. Ascolti, intanto ormai l'argomento principe è l'Inter, no? Mi sembra, almeno nel finale. No, per quanto mi riguarda no, di sicuro, però... No, dicevo, in questo momento qui ho sentito diverse telefonate, hanno chiamato un po' per lamentarti, un po' per... No, niente, volevo dire la mia riguardo ai mali oscuri dell'Inter, che sono molti e molteplici. Allora, probabilmente lo sbaglio primario, secondo il mio umile punto di vista, che fa qualsiasi società, se sportiva, soprattutto nel calcio forse, è il cambio spesso e volentieri degli allenatori. Perché cosa succede secondo me? Ogni allenatore porta del suo, no? Nel bene e nel male. vuoi quel giocatore, vuoi quel tipo di modulo, vuoi insomma quello che è. Sì. E quindi di conseguenza ne risente anche un pochettino l'ossatura, e se vogliamo anche i giovani stessi promettenti. Ora diceva prima quel signore ha chiamato prima, non ricordo, mi sembra da Padova, che diceva che giovani può sfornare l'Inter, dall'Inter c'è passato di tutto e di più, a iniziare dai giovani, perché Balotelli mi sembra sia venuto fuori dal vivaio dell'Inter. Giusto? Del Lumezzane, poi attraverso il Brescia e poi dell'Inter. Giovanni, un po' di sintesi perché siamo vicini alla chiusura. È la roba dell'Inter. E per non parlare poi di tutti i vari campioncini in erba, vedi Pirlo, vedi i vari giocatori sociali, ci sono passato di tutto e di più all'Inter. Sì, Giovanni, la ringrazio, le ripeto, cioè, ci sono altri ascoltatori in linea e soprattutto tra poco dobbiamo restituirla tempestivamente alla pubblicità e poi al giornale radio. All'ultima, un'ultima ora appena uscita, esonerato Castori o Castori, non ricordo mai la pronuncia, forse Castori, l'allenatore dell'Ascoli. Tentiamo un ultimo intervento possibilmente più sintetico del precedente. Giuseppe da Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, io ho un parere da lei, da persona espertissima. Dico, secondo me l'Inter, nel fatto del cambio ciclo, non abbia capito che sia finito un ciclo e iniziato l'altro, secondo me ha approfittato del problema dei calciopoli che hanno avuto Inter, che ha avuto, scusi, il Milan, la Juve, il Napoli era in Serie B, è riuscito un po' a farla da padrona senza avere avversari. Però credo che i dirigenti dell'Inter non abbiano quella, secondo me, quello spessore per gestire una società di quel livello. Volevo sapere lei cosa pensa. Che un fondo di verità c'è, cioè, ma mi sembra un po' tirata via come tesi, no? Perché poi poteva essere, diciamo, poteva essere un'agevolazione iniziale, quella di avere pochi avversari o punti come fu nel primo anno, ma da lì poi mi sembra che invece la situazione anche dei rivali sia cambiata. È strano comunque come si riesca sempre a tornare indietro, no? Incartandosi in questa maniera. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanide in redazione, ci risentiamo domani.